Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Flavio Suarez in redazione, Pietro Lacorte in regia e Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Alla faccia della recessione mondiale e dello sport in tempi di crisi su cui abbiamo versato un sacco di inchiostro, abbiamo speso un sacco di parole. Arriva Florentino Perez e in due giorni mette sul tavolo 150 milioni di euro e fa saltare il banco. Kakà 67 e oggi è ufficiale Cristiano Ronaldo 93 milioni di euro a Real Madrid. Il vostro numero invece è 800240024, non ci guadagnate dei soldi, però chiacchieriamo insieme. Filippo Maria Ricci da Madrid, buongiorno. Buongiorno. Allora, Kakà sul podio dei tre acquisti più pagati della storia del calcio dura 24 ore. Il primo era Zidane, adesso è il secondo, 76,96 milioni di euro, poi Figo 73,85, terzo era Kakà 64,50 fino alle 10:30 di stamattina, quando c'è stata la notizia. 10:49 di stamattina il Manchester United ha annunciato il trasferimento di Cristiano Ronaldo al Real Madrid, 96 milioni di euro. E c'è chi dice che alla Casa Blanca stanno per arrivare altri giocatori, da David Villa, Frank Ribéry, magari al capriccioso Maicon, e chi più ne ha più ne metta. Alla faccia della recessione, si diceva, Filippo. Austerity, no? Come negli anni 70. Esatto. In momenti di austerity bisogna stringere la cinghia. No, però c'è da dire una cosa, che Florentino in questo è stato sempre molto, tra virgolette, onesto. Nel senso che lui, quando si presenta, dice: io devo fare in 3 mesi il lavoro che una squadra normale farebbe in 3 anni. Dice: spenderò 250 e 300 milioni di euro per costruire una squadra non solo di campioni, ma anche una squadra che si possa vendere. Perché prima di questo Real Madrid era che non si poteva vendere, e secondo me lui aveva assolutamente ragione su questo, nel senso che io l'ho vissuto in prima persona. Se tu anche magari al giornale vuoi proporre delle interviste di persone da intervistare, a Real Madrid ce ne erano poche, questo sì. No? Per dare sì, che sì, possono vero. Interessare in Italia, quindi come in Italia vuol dire poi altri paesi. Florentino ha le idee molto molto chiare e i soldi da spendere, lui ha una grandissima società di costruzioni, quindi con le banche non dico che può fare quello che vuole, però ha comunque degli ottimi rapporti, sanno che di lui ci si può fidare. Lui ha detto che per costruire un Madrid non solo vincente, ma soprattutto vincente a livello di immagine, vincente a livello di fatturato, bisogna prendere queste grandi stelle, perché ti fanno vendere il marchio. E il discorso non fa una piega. Lui sostiene che i 75 milioni spesi per Zidane rientrarono in pochissimo tempo. Il fatturato del Real Madrid con Florentino passò da 100 a 400 milioni, o da 100 a 300 milioni in un anno e mezzo, insomma. E così andava avanti. Adesso sicuramente vengono anche gli altri che lui ha promesso. Sì. La sorpresa di questo Cristiano Ronaldo è solo nel timing, nei tempi, perché... si pensava, almeno a Madrid, si pensava che fosse l'ultimo acquisto, quello più complicato, e invece, dopo che Madrid ne ha detto tutti i colori al il Manchester United ha detto tutti i colori al Real Madrid per anni, è bastato che cambiasse il proprietario. Il proprietario è Cristiano Ronaldo, puntualmente arriva. Doveva essere il fuoco d'artificio più luminoso, esatto. Quello di chiusura, l'ultimo, e invece è soltanto il secondo. In Italia tutti si domandano, Filippo, ma a parte il fatto che ieri abbiamo fatto un discorso molto serio sul fatto che comunque il Real Madrid può galleggiare può camminare sulla crosta di 500 milioni di debiti. No, correggimi se sbaglio. Sì, 500, più o meno, sì. Esatto, cosa che in Italia ovviamente i club non possono fare. E che fanno anche in Inghilterra, E che fanno in Inghilterra e in Spagna, appunto, c'è questa distorsione del mercato per cui le normative consentono a un club di camminare sulla crosta mentre sotto c'è la lava, 500 milioni di euro di debiti per il Real Madrid. Ma qui in Italia tutti si domandano: ma Florentino Perez, tutti questi quattrini da dove li prende? No, allora lui ha questa società di costruzione che si chiama ACS, che è una società enorme. Lui è un imprenditore tra i più grandi di Spagna, cioè è un uomo di grandissima ricchezza, di grandissimo, più oltre che la ricchezza c'è il potere economico. Sappiamo bene che alla fine ci sono i soldi, però ci sono anche i prestiti. Se andiamo io e te a chiedere un prestito da 300 milioni di euro, sì, difficilmente ce lo danno. Difficilmente. Esatto, difficilmente, perché comunque siamo persone oneste, quindi magari una chance ce l'abbiamo. E se ci va Florentino Perez, i soldi ci sono, perché comunque si sa che lui poi in qualche modo rientra sempre. Questo è il discorso. Sì. Bisogna vedere Io farei un altro, aprirei una parentesi. Qui non si tratta più nemmeno di, come si può dire, di discorsi legati al successo sportivo. Perché Florentino ha dimostrato che pur non vincendo per 3 anni, il Real Madrid comunque si vendeva benissimo. Certo, certo. Cioè, qui certo. Andiamo un minimo oltre, no? Dice no, però la squadra deve vincere e dopo il marchio. No, perché una squadra che ha Kakà, Cristiano Ronaldo, poi magari prende anche no, Ribéry e altri così, avrà comunque un marchio, cioè una potenza tale sul mercato che sarà sempre in vendita, sì, sarà sempre, sì, genererà sempre impatti. Se certo. Poi vinci ancora meglio. No, poi bravi loro a gestirli, perché il rovescio della medaglia rispetto al nostro calcio è che una delle prime notizie uscite dopo l'acquisto di Kakà da parte del Real Madrid è stato: benissimo, abbiamo speso 65-67, quel che è, milioni di euro. Kakà ci renderà 100 milioni di dollari nel primo anno. Poi non so se siano analisi corrette, un po' campate per aria, però bravi anche loro a utilizzare comunque il marchio, no? A utilizzare, cioè, l'immagine. Quando arriva Beckham, no? Che lo pagano 25 milioni di euro, che uno, sì, a quel tempo poteva anche essere tantissimo, perché comunque, no, Beckham è un giocatore buono, però magari non un giocatore, però loro con Beckham hanno, come si dice a Roma, fatto i soldi proprio, cioè, no? Sì, sì. Cioè, ma i soldi veri, nel senso che, perché c'è questa storia che comunque il calciatore lascia nelle casse del club il 50% dei suoi contratti pubblicitari, e qui parliamo di gente che ha contratti pubblicitari magari per 30, 40, 50 milioni di euro, come così, proprio molto facilmente, e tu dividi per 2 la cifra e già cominciamo a rientrare. In più c'è appunto la solita, dalla banale vendita delle magliette fino ai diritti televisivi. L'obiettivo di Florentino Perez è quello di andare praticamente a rompere le uova del paniere alla Premier League in Asia, nel mercato asiatico, dove al momento il Real Madrid non conta niente e prima contava tantissimo. Sì. Tant'è vero che adesso io voglio vedere se lo farà, ma uno dei suoi progetti è quello di spostare gli orari della Liga, che voi sapete bene gioca tardissimo, a orari inglesi. Quindi lui vorrebbe che la Liga giocasse tra l'una e le 4 e le 5 del pomeriggio. Questo perché? Non perché, diciamo, gli fa comodo a lui, ma semplicemente perché vuole andare a fare concorrenza alla Premier League in Asia. Certo, certo. Quello è il prime time asiatico. Cioè, questo è comunque un uomo con le idee molto chiare, e poi, appunto, magari poi dopo si mette lì a fare la formazione e caccia l'allenatore e dopo ci sono problemi di carattere sportivo. Però in ambito manageriale questo è uno che sa come si fa. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Tanto che con Kakà, viene da dire, alla luce delle notizie di oggi, di questi 93 milioni di euro per Cristiano Ronaldo, con Kakà ha fatto un affare, e di converso al Milan tutta quella fretta è costata cara, perché io dico, tra Cristiano Ronaldo 93 e Kakà 65, beh, insomma, mi sembra ci sia una certa differenza di quotazione, ma non di valore dei due giocatori. Per intenderci, io tra i due prendo tutta la vita Kakà, per primo, esatto, poi se esatto. Posso prendo Cristiano Ronaldo, però è chiaro che il Real a questi prezzi mostruosi ha fatto un affare. No, infatti quello, perché anche lì vedi la praticità, no, di Sir Alex. Sir Alex sa benissimo che comunque Cristiano Ronaldo è un tipo particolare, no, difficile da gestire così. Ci ha già vinto una Champions League, è arrivato alla finale, ne ha persa un'altra, no? E lui cosa fa? Nel momento in cui gli mettono sul tavolo una cifra così, quando poi appunto un giocatore come Kakà è stato pagato 65, lui è sicuro che sul mercato potrà andare a prendere non un Cristiano Ronaldo, però magari qualcuno di simile, ha una cifra molto inferiore. Certo. E qui ci sta tutto. Ma però io dico, a me quello che piace di Florentino è anche la gestione di tutto questo. Cioè, lui domenica ha fatto un'intervista al Times in cui chiedeva scusa per la precedente gestione al Manchester United. Dice, io posso anche rinunciare a lui, mi importa di più l'amicizia col club e tutto così. Cioè, questa è una, diciamo, una programmazione strategica spettacolare, e in 3 giorni se l'è portata a casa. E Kakà pure, cioè Kakà è un affare chiuso da un sacco di tempo, con, sì, quello che poi qua si possono dire tante cose, ma Kakà è chiuso da un sacco di tempo, sì. Perché vuol dire, è arrivato Calderon, ci ha provato per 2 anni e non c'è riuscito, si è fatto dare del brigante così, perché alla fine sono i rapporti, come col discorso che facevamo prima con le banche, no? Certo, certo, certo. Adesso poi vediamo così eufemisticamente Pellegrini cosa combinerà, perché il problema vero è che poi bisogna giocare a pallone. E i difensori per ora Bravo. Mancano, In perfetto stile Florentino. A proposito, signori, il vostro numero verde 800 24 00 24, io vi aspetto naturalmente tutto il tempo che volete, tutto lo spazio che volete per voi ascoltatori. In perfetto stile Florentino si parte dalle stelle, dal tetto della casa, no? Al Real Madrid, però già molti ascoltatori via SMS lo notano, servirebbe qualcosa anche nell'altra metà del campo, quella oscura per Florentino. Il spagnolo si dice, no, costruire la casa dalla finestra, sì, che non è male, no? Sì, adesso sì, si parla di Albiol, bellissimo, no? Albiol del Valencia, che dovrebbe essere, no, un po', come si può dire, il dito che tappa la, no, la diga, no? Per chiudere la falla dietro, perché poi ovviamente loro, sì, vabbè, ci sono già dei giocatori di valore come Sergio Ramos o come Pepe, con tutto che ha fatto la pazzia, però insomma, però sicuramente manca una, hanno preso questo giovane argentino del Racing, Garay, insomma, però è tutto da vedere, insomma, da costruirla questa squadra sarà, e poi la più grande incognita di tutte, dove metti Raul? Dove metti Raul? Ma certo, naturale, perché Raul gioca, poi gli altri vediamoli intorno. A questo proposito, dal Supermarket Real Madrid qualcuno dovrà anche uscire, magari anche giocatori interessanti e magari anche a prezzi di saldo, come fai a saperlo? Telar già preso, Higuain, Robben, Van Nistelrooy, dimmene qualcun altro, non so, chi ci può essere? Drenthe, non so. Robben, Snyder, Van der Vaart, quindi può essere anche fucina di affari, magari qualcuno ci trova il nuovo cambiasso. No, sicuramente, perché ricordiamoci di una cosa, che in Liga tu puoi iscrivere 25 giocatori. E basta, 25, non ne puoi scrivere di più. Poi c'hai quelli della primavera, però non so. E al momento il Real Madrid ne ha 28. Sì. E continuano ad arrivare. Quindi qualcuno deve andare via. Anche qualcuno tanto, insomma, devono dar via almeno 5-6 giocatori. E hanno tutti i contratti. Cioè, questo stiamo già parlando al netto dei tre che andranno via, che sono Cannavaro, Faubert e Dudek, che erano quelli senza contratto, insomma. Quindi la situazione è abbastanza complicata, bisogna far posto nello spogliatoio proprio a livello fisico, e quindi sì, io invito le squadre italiane a dare un'occhiata, perché probabilmente sia in fascia alta che in fascia media sono sicuramente giocatori di grandissimo livello. Senti, ma un ultimo discorso che voglio fare con te: se Ronaldo, tra virgolette, regalato al Real Madrid, Moratti accontentò il suo fenomeno che faceva i capricci per andare al Real nel 2002, 46 milioni di euro erano obiettivamente pochi, 90 miliardi, parla di pochi soldi, mi vengono i brividi, però rispetto al mercato, alle cifre che sono tornate a girare ora, non erano molti per il giocatore più forte e più famoso del mondo, però quei 46 milioni di euro calmierarono il mercato e quindi anche gli altri giocatori costavano qualcosa meno. Adesso, in assoluta controtendenza, mi domando quanto, dopo queste cifre, quanto potranno costare e guadagnare giocatori normali. Ad esempio, Real Madrid va a prendere Albiol, quanto chiedono per Albiol? Esatto, no, infatti adesso il Valencia si frega le mani, però attenzione, il Valencia ha 547 milioni di debiti, Florentino lo sa molto bene, magari aspetta, e lui vuole prendere tre giocatori dal Valencia e lui ha offerto 50 milioni per tutti e tre, quando loro magari vorrebbero vendere solo a 50 milioni solo David Villa. Però adesso c'è un'altra cosa, perché adesso le inglesi, di cui parliamo tanto, hanno soldi da spendere, e dove li spendono? Perché il Chelsea ancora non ha comprato nessuno, no? Sì. Forse Zirkov, mi sembra. Adesso il Manchester United, con questi 93 milioni, a parte ripianare quei tanti debiti che ha, qualcosa, però sicuramente dovrà investire. Sì. Allora, quindi, diciamo, non possono comprare giocatori di seconda fascia. E quindi, cioè, il mercato si anima ancora di più, no? Io sono curioso, adesso siamo ancora a giugno, siamo ancora ai primi di giugno, quindi c'è tempo, quasi tre mesi, due mesi e mezzo. Alla fine è il paradosso che nell'anno della crisi il calciomercato, diciamo, ribolle e porta a casa, diciamo, si muove in maniera come non si muoveva da tempo. Il calciomercato se ne frega della crisi e di tutto quello che abbiamo detto per mesi sui riflessi della crisi economica sullo sport. Guardate un po', Filippo, per chiudere, Ibra dove va? Va a Barcellona, non va al Barcellona? Lui dice: so dove giocherò l'anno prossimo. Molto crittico. Non lo so, guarda, io sono un po'. A me questa cosa del Barcellona, sinceramente, faccio fatica a comprenderla. Esatto, appunto. Perché il Barcellona deve privarsi di Eto'o per motivi caratteriali e poi andare a prendere Ibrahimovic, comunque due gol in due finali di Champions League deve ancora farli. Sì, forse li farà col Barcellona nei prossimi anni, però ancora non li ha, no? Mentre Eto'o ha già vinto due Champions League segnando in entrambe le finali. È comunque un giocatore... Eto'o che sì, con tutti i suoi limiti caratteriali, però sanno come controllarlo. Prendono uno come Ibrahimovic, che è tutto da vedere, tutto da verificare. Sì, magari farà 4 gol al Getafe e 3 al Malaga, però poi dopo, no? vediamo poi nelle grandi partite, sì. E so, ha uno stipendio enorme, sì. io non lo so, se fossi nel Barcellona andrei a prendere Diego Forlan, insomma, allora togli dallo spogliatoio un personaggio potenzialmente pericoloso come Eto'o e ti prendi uno che invece è molto tranquillo, o David Villa, o non lo so, insomma, ci sono sicuramente altri. Per cui non lo so come va a finire questa storia però sembra che a Barcellona siano sicuramente interessati e anche abbastanza determinati. Per cui sai, adesso cosa succede? Che c'è il barcellonista tende alla depressione. E adesso con tutti questi gol, no, questa però è una malattia seria, a Barcellona. Sì, sì, già che Florentino li ha lasciati tranquilli e non è andato a prendersi Messi, per un motivo molto semplice, che se spendeva 150 milioni solo per lui, deve rifare la squadra, non lo poteva fare, certo. Magari lo farà il prossimo anno. Però, già che gli ha lasciati tranquilli, loro adesso devono comunque reagire e cercare di portarsi a casa qualche stella. Volevano Ribéry, quasi certamente Ribéry finirà al Madrid. Può esserci Benzema, però sono pochi quei giocatori, tra virgolette, per risollevare un po' il morale. E quindi qualcosa il Barcellona dovrà fare. Non vorrei che, un po' come dicevi tu prima del Milan, che c'è stata un po' di fretta, forse adesso per la fretta di controbattere questa grande offensiva del Real Madrid, magari vanno lì e prendono Ibrahimovic pagandolo caro, dandogli un grande stipendio, e poi questo stipendio ti costa tantissimo a livello di spogliatoio, ma chiaro, comunque deve aumentare tutti gli altri. Perché poi tutti passano alla cassa. Filippo, grazie, torniamo a parlarne nel weekend. Grazie davvero. Stop. Buon lavoro Filippo Maria Ricci. Nel frattempo le percentuali di Galliani, tutti i big restano al 99,9%, dice Galliani, Pato rimarrà in rosso-nero al 100%. Chi vivrà, vedrà. Giuseppe da Milano, Nadir da Padova, Luca da Rimini, 800 24 00 24, numero verde, subito gli ascoltatori. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Dica. Senta, io volevo precisare una cosa, l'inadeguatezza della dirigenza del Milan, in questo caso qua, nella gestione di Kakà. Sì. Il fatto che noi, cioè che io sono milanista, sì, altre cose, sì. Il fatto che abbiano venduto Kakà così a questa differenza di prezzo che è stato venduto a Cristiano Ronaldo, sì, mi lascia un po' perplesso. Ma se il Milan doveva ripianare i debiti, non era meglio vendere altri giocatori, tipo Pirlo, Seedorf, Calazze, e risparmiava anche sugli ingaggi alti che hanno questi giocatori, e rimpiazzarli con dei giovani? Forse era meglio a monte non prendere magari Ronaldinho, ma torniamo ai discorsi dei giorni scorsi, non prendere Ronaldinho, non riprendere Shevchenko. Magari fare un pensierino in più su Zambrotta, giocatore molto costoso dal punto di vista dell'ingaggio, in là con gli anni, ma come lui molti altri. E poi, insomma, ha voglia a vendere i Seedorf, a riuscire a piazzare i Seedorf, i Calazzi, eccetera, eccetera, per arrivare a quello che è stato incassato in un colpo solo con la cessione di Kakà. Piuttosto vale appunto il discorso che abbiamo fatto, cioè con magari un po' di fretta in meno, e visti i denari che circolano, insomma, se vediamo Cristiano Ronaldo 93, Kakà 65, con Kakà il Real Madrid ha senz'altro fatto un affare, non so il Milan per l'appunto. Nadir, Padova, buongiorno. Buongiorno. Dica. Come pendolare di macchine sono quasi obbligato ad ascoltare le vostre trasmissioni, dico chiaramente in maniera ottimistica, essendo milanista e appassionato di calcio. Due cose veloci, investendo sui giovani, Urquhart, perché l'hanno dato via? Primo. E secondo, Borriello. Possibile che non si capisca come mai da tanti mesi questa persona è quasi scomparsa dal Milan, Perché ha avuto un infortunio molto grave. Ha avuto un infortunio molto grave che richiede tempi di recupero molto lunghi. Non è il primo grave infortunio di Marco Borriello, giocatore molto, molto delicato da questo punto di vista, soprattutto dal punto di vista muscolare. Lo rivedremo, io credo, a pieno regime con la prossima stagione, magari con le dita incrociate, appunto, perché comunque è un giocatore che può servire molto al Milan, al di là poi di chi arriverà lì davanti in attacco, se Dzeko o qualcun altro. E grazie. Luca Rimini, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo dire, adesso i poveri dantisti, i poveri tifosi milanesi, insomma, si lamentano, però non si ricordano quanto ho fatto Oddo con l'ingaggio, più di 30 anni, Zambrotta. Verissimo, no, verissimo, verissimo. per non parlare di Ronaldinho. Io comunque da tifoso interista, se arriva l'assegno che Moratti pretende, glielo porto io Ibra, voglio dire, indipendentemente dai soldi se sono investiti o meno per altri giocatori, perché comunque la squadra dell'Inter come grossa è abbastanza giovane, quindi poi se si vuole anche puntare sulla primavera come ha fatto prima Mancini, adesso sì, può fare ancora di più Mourinho, io sono molto contento di vedere giovani, ma soprattutto giovani del settore giovanile, sì, anche sì, perché Moratti è ora di finirla che faccia beneficenza in Italia, battono cassa, per cosa? Prendono, no, poi... e se ne vadano se vogliono vincere e guadagnare tanto, se ne vadano pure all'estero, tanto poi, voglio dire, alla fine scassi il cassi, ma siamo sempre campioni del mondo, ecco. No, ma non c'è dubbio, infatti è un atteggiamento, credo, molto fastidioso anche per Massimo Moratti, Ibrahimovic che da un po' la mena con i suoi disturbi di stomaco. Maicon, ieri ho sentito un'intervista vagamente nauseante del procuratore di Maicon Caliendo, che diceva: no, Maicon non vuole andare via, Maicon vuole bene all'Inter e al suo presidente, però se Ibrahimovic guadagna tanto, un po' del merito dei gol che fa Ibrahimovic va a Maicon, tanto che io scherzando spesso gli dico una parte del suo stipendio dovrebbe darlo a te con tutti i gol che gli fai fare, tutto questo discorso, questa manfrina, come per dire Maicon certo è il più forte laterale del mondo, dunque qualcosa vorrà pur volere, il presidente Moratti gli vuole bene, dunque dovrà pur adeguargli sto contrattino che, se non sbaglio, è intorno ai, lo dico io questo, 3.5 milioni di euro l'anno, tra l'altro, se non ricordo male, ritoccato da non molto. Insomma, questi atteggiamenti sono fastidiosi, diciamo fastidiosi. Se volete dire qualcos'altro, 800240024, ditelo pure. Luca Bologna, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno, io le volevo chiedere, intanto, nel calcio la palla è rotonda, quindi sentire tutti questi discorsi, milioni su calciatori e non calciatori, però sto parlando Real Madrid, Barcellona, sì, Manchester, sì, però bisogna vincere, cioè secondo me bisogna vincere, perché poi è vero il marchio, tutto quello che si vuole, però cioè, la fama, i diritti televisivi, tutte queste cose penso che diventino anche... No, Luca, certo che bisogna vincere, però avendo i quattrini è un po' più facile, perché se si prendono in un colpo solo in due giorni Kakà e Cristiano Ronaldo, è vero che poi una squadra di calcio non è fatta anche di altre cose, di equilibri e tutto quanto, però lei capisce bene che la prossima Champions League potrebbe anche trasformarsi in una sorta di... una specie di telenovela sudamericana, straricchi contro peones, e tra i peones ci finiamo anche noi con questa, secondo me il vero punto del contendere è questa distorsione pazzesca creata dalle normative interne che consentono, come stiamo dicendo da due giorni, al Real Madrid di navigare su un mare di 500 milioni di euro di buco, di passivo, alle squadre inglesi di fare altrettanto, che fanno dire a Platini: sono stufo di vedere finali di Champions League tra squadre indebitate fino al collo, però al di là del dirlo, a questo punto sarebbe anche il caso di lavorare efficacemente e seriamente, anche rapidamente, su questa distorsione del mercato. Prego Luca. Sì, poi un altro, ecco, questo si rallaccia poi alla mia seconda domanda, che si svolge in due parti in pratica. Tempo fa, parecchio tempo fa, l'Italia aveva il Torino che sfornava giovani da tutte le parti, l'Atalanta, idem, Milan quanti giovani, da Baresi, sì, a... adesso non mi viene in mente altro. Beh, famoso tanto per cominciare Maldini, magari uno a caso così. Scusa. Uno a caso così. Uno che ha contato poco. Adesso gli inglesi cominciano a fare la stessa cosa. Noi aspettiamo che ci comprano i nostri giocatori, comunque comprano i migliori, ma dove andremo a finire? Cioè, dove il peones... Ma non è tanto questo, non è tanto quello, Luca. Il discorso è che a un certo punto, e sempre con sentenza Bosman e rivoli collaterali, investire sul settore giovanile è diventato qualcosa di che in pochi si sono potuti o voluti permettere. Ad esempio l'Inter investe molti soldi nel settore giovanile e non a caso tira fuori i giocatori che conoscete. La Roma opera e ha operato questa politica per lungo tempo. Ad esempio un club come il Milan ha smesso da diverso tempo di investire risorse sul settore giovanile per scelta precisa che ha fatto il Milan, ma che hanno fatto anche anche altri, insomma, perché forse si sono resi conto che il gioco poteva non valere la candela, nel senso che i giocatori usciti dal settore giovanile non protetti potevano essere, tra virgolette, scippati da club stranieri, come è successo. Questione di punti di vista e di prospettive, però questo è un dato di fatto. Ci sono grandi club, la Juventus sta facendo uno splendido lavoro col settore giovanile, molti altri club hanno abbandonato la pista. È il caso di tornarci? Penso proprio di sì. Tornare ad investire sul settore giovanile? Penso proprio di sì. Leonardo, neo allenatore del Milan, a proposito del passaggio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid, dice: la notizia mi ha colpito anche se era nell'aria, ora il Real ha la possibilità di avere i più grandi giocatori del mondo, Kakà, Ronaldo, e già che ci sono forse anche Messi, che in ogni caso gioca in Spagna. Le grandi possibilità economiche della società madrilena influiranno non poco nell'economia generale del calcio, lo dice Leonardo, che a proposito del mercato del Milan dice: beh, abbiamo tempo fino al 31 agosto, il mercato è aperto, possiamo fare le nostre valutazioni e stabilire gli obiettivi. Nicola Roggero, buongiorno. Ciao Nicola. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Quanto dolore per te, tifoso del Manchester United? Beh, diciamo che se fossi ancora azionista del Manchester United sarei lietissimo, perché probabilmente il mio titolo in borsa il giorno dopo schizzerebbe in maniera vertiginosa. Ma sto parlando di una radio che in fatto di economia e finanze ovviamente al massimo dell'autorevolezza, per cui non mi addentro su questo campo, ma ritengo che una cifra di 93 milioni di euro per un giocatore, per quanto forte come Cristiano Ronaldo, sia totalmente spropositata. Io faccio un calcolo abbastanza semplice e credo che una squadra come il Manchester abbia un giro d'affari annuo intorno ai 300 milioni di euro, milione più, milione meno. Non è possibile che questo fatturato per il 30% sia dato da un solo giocatore, tenendo presente poi il resto della rosa del Manchester, quindi siamo in un campo di valutazioni totalmente al di fuori del mercato. Certo. Dal punto di vista tecnico invece è certo che il Manchester dovrà adesso preoccuparsi di sostituire Cristiano Ronaldo e dovranno forse preoccuparsi delle altre squadre di contrastare Real Madrid, anche se mi sembra che la precedente esperienza dei Galacticos e la politica di Florentino Perez non abbia certo dato risultati in linea con gli investimenti fatti. Sì, come diceva prima Filippo Maria Ricci, si è cominciato a costruire la nuova Casa Blanca dalla finestra. In Spagna dicono così. Sì, direi dal tetto proprio. Sì, in Spagna dicono dalla finestra, che mi sembra facile e carina, però il senso è quello, Nicola, perché sì, non manca le fondamenta. Ecco. Nella metà buia del campo, che è quella che Florentino Perez vede evidentemente come la metà buia del campo, insomma, lì servirà a comprare qualcos'altro. Stiamo dicendo anche che appunto sulla base di queste cifre, 93 milioni di euro per Cristiano Ronaldo, tutto sommato Florentino con Kakà ha fatto un affare, oppure il Milan non ha fatto fino in fondo un affare con la cessione di Kakà, perché insomma mi sembra la differenza mi sembra parecchia tra le due quotazioni. Sì, no, beh, vista la cifra di 93 milioni di euro per Ronaldo, Kakà sembra quasi venduto ai prezzi di saldo. In realtà anche Kakà con 68-66, insomma quante sono, mi sembra che si scriva di diritto nell'hit parade delle valutazioni folli. Certo, a questo punto per il Milan resta forse da rammaricarsi di non aver dato retta fino in fondo agli sceicchi a gennaio, quando la valutazione del brasiliano era addirittura di 110 milioni di euro. Lì probabilmente c'era l'opposizione di Kakà al trasferimento. Certo. Resta il fatto, e lo ribadisco ancora una volta, che per quanto siano due giocatori straordinari, sia Kakà che Ronaldo, due giocatori che hanno vinto la Champions League, che hanno vinto il pallone d'oro, che sicuramente hanno significato molto negli ultimi anni per le loro squadre, mi pare che siano valutazioni di fronte alle quali si fa bene a vendere, perché sì. Adesso il Madrid, il Manchester United con 93 milioni di euro, non so chi può andare a pescare, ma può andare a pescare almeno tre giocatori straordinari, non so, un attaccante da 50 milioni di euro, un centrocampista da 25 e un difensore da 20, anche croce, insomma, non è male, ecco. Non è male. Se fossi Ibrahimovic? Se fossi Ibrahimovic io, beh, tutto sarei... No, se fosse Ibrahimovic, se quell'attaccante fosse Ibrahimovic? Non credo, non credo, anche perché mi sembra che Ibrahimovic sia molto orientato verso il Barcellona e a sua volta Guardiola si è orientato a volere Ibrahimovic. Io penso che un attaccante interessante per il Manchester United potrebbe essere proprio la controparte di Ibrahimovic, la presunta controparte di Ibrahimovic, che è Eto'o, che è un giocatore di grande verticalità secondo il gioco del Manchester United, e potrebbe proprio essere lui a diventare quella punta che forse al Manchester quest'anno è mancato, tenendo presente che Berbatov ha certamente deluso e Tevez è stato usato un po' con il contagocce. Ecco, sì. A proposito di Tevez, magari la parte dei soldi incassata dal Manchester per Ronaldo potrebbe essere reinvestita sul riscatto di Tevez. Sempre che Sir Alex sia d'accordo, ma visto l'utilizzo di Tevez in questa stagione non penso che abbia voglia di spendere molti soldi per riscattarlo, no? Sì, anche se io credo che Tevez è stato sacrificato soprattutto per ragioni tattiche, cioè sì. Ferguson voleva quello che un tempo si chiamava il centravanti di manovra, la Ideguti, sì, che era il centravanti della Grande Ungheria degli anni 50, e Berbatov probabilmente faceva il caso suo. Il problema è che poi il rendimento di Berbatov, sia come realizzatore, e forse questo non è una sorpresa fino in fondo, che soprattutto in apporto alla squadra non è stato quello atteso, per cui Tevez alla fine ha finito per essere sacrificato un po' per nulla. Chissà, le soluzioni al Manchester non mancano, potrebbe essere proprio quella della scelta di un centravanti. Io ho fatto il nome di Eto'o, ma ripeto, potrebbe essere lo stesso Tevez, un Rooney che si sposta definitivamente sulla corsia, ruolo che ha spesso interpretato nell'ultima parte dell'anno, e poi dall'altra parte non c'è solo l'imbarazzo della scelta, cioè c'è ancora un vecchio signore che si chiama Ryan Giggs, che mi sembra nell'ultimo anno abbia avuto un rendimento ancora altissimo. C'è eventualmente questo Nani, che è portoghese come Ronaldo, e come Ronaldo veniva dallo Sporting Lisbona, che potrebbe essere definitivamente lanciato. E poi, ripeto, con tutti quei soldi c'è la possibilità di andare a prendere un grosso modo che si vuole. Non mancano soluzioni. Uno potrebbe essere proprio Robben del Real Madrid. Certo, no, dicevamo prima che Real Madrid, al supermarket Real Madrid, qualche prodotto in uscita ci dovrà pure essere. E tra l'altro qualche giocatore c'è. Saldo a questo Bravo, punto, sapendo esatto. che devono venderlo. Sapendo che devono venderlo, magari qualcuno va a rifare un affare cambiato, anche se quello mi è sembrato troppo colossale per essere vero. Però Unterer appena preso, peraltro, Higuain, Robben, Van Nistelrooy volendo, ma ce ne sono molti che potrebbero interessare. Piuttosto mi domando se questo mercato pazzo in controtendenza rispetto a tutto quanto ci succede intorno possa avere, innescato dal Real Madrid, possa avere un effetto domino sul mercato complessivo. Cioè mi domando quali possano essere a questo punto le valutazioni di giocatori tra virgolette normali, oppure i loro ingaggi. Ma io credo che Real Madrid agisca talmente fuori da una logica di mercato, sì. come dicevi in precedenza, che non è possibile che ci sia un adeguamento. Credo che soltanto il Chelsea di Abramovic, che però, attenzione, negli ultimi due anni mi è sembrato molto più parco nelle spese, o al limite l'Inter di Moratti, ma a sua volta anche Moratti nelle recenti dichiarazioni mi sembra che abbia, insomma, manifestato il desiderio di non intervenire più di persona a coprire dei bilanci che erano sanguinosi. Quindi io penso che per gli altri giocatori le valutazioni resteranno quelle, non può esserci un effetto domino su una valutazione di 68 milioni di euro per Kakà e 93 milioni di euro per Ronaldo, fermo restando il valore dei giocatori, non c'è veramente partita, non c'è confronto, non può salire più di tanto la valutazione dei giocatori per le altre squadre. Certo, ci saranno molti più denari a disposizione, quelle che adesso hanno Milan e Manchester United, è chiaro che non verranno spesi tutti, anche perché questi due club avevano comunque delle ragioni di bilancio da far quadrare, ma certo si crea un effetto domino, nel senso che queste due formazioni dovranno fatalmente muoversi. Certo. E con buona pace di Platini, la prossima Champions League, caro Nicola, rischia di essere, lo dicevo prima, una specie di rappresentazione di una telenovela sudamericana, ricchi straricchi contro peones sempre più numerosi. Beh sì, mi sembra però in linea con quanto è accaduto nelle ultime stagioni. Io mi aspetto sempre questi interventi che Platini in qualche maniera ha promesso. Non so francamente come si possa intervenire di fronte a una squadra come Real Madrid, che probabilmente presso le banche spagnole ha un credito evidentemente infinito, insomma una squadra che nel giro di 3-4 giorni tira fuori 160 milioni di euro. Per chi non fosse ancora abituato, parliamo di circa 315 miliardi delle vecchie lire. È evidente che ha un credito illimitato, perché Real Madrid ha tirato fuori una cifra che non è superiore al suo giro d'affari annuo. Il problema è che le normative glielo consentono. Ecco, appunto, si tratta di capire come si può intervenire su queste normative. Ed è obiettivamente molto difficile. Si potrebbe ritornare alla vecchia peculiarità dello sport, si è arrivato di farlo in occasione della legge Bosman, che fu un po' il tassello che fece saltare tutto nell'andirivieni di giocatori da una squadra all'altra. Però lì le cose non funzionarono, perché poi i calciatori, per quanto lavoratori certamente particolari, soprattutto dal punto di vista economico, furono trattati esattamente come tutti gli altri lavoratori. Sì. Anche stavolta non so che margini di manovra ci possono essere. Gli americani hanno le leghe che hanno il famoso salary cap, ma c'è tutta una normativa diversa. In America, nell'NBA, nell'NFL, non c'è lo scambio di giocatori giocatore contro denaro, c'è lo scambio giocatore contro giocatori. Non c'è una valutazione economica del giocatore. Quindi è tutto un mondo che si regge su parametri differenti. Beh, forse bisognerebbe copiare da lì, ma mi sembra che un'operazione abbastanza lunga. Sì, abbastanza lunga e complicata. Nick, per chiudere, hai citato prima il Chelsea. Carlo Ancelotti è arrivato lì, penso che qualcosa abbia chiesto, al di là di Maldini che potrebbe seguirlo come team manager, notizia delle ultime ore ancora non confermata, però un'idea c'è, c'è chi scrive e dice no, ma il Milan, Maldini se l'è dimenticato. Beh, grosso modo sì, considerato anche il fatto che ieri si è presentato da solo in questa conferenza stampa degli AD, non ha risparmiato critiche al suo vecchio club, e l'impressione è che non ci sia una grande aria in questo momento tra il vecchio capitano e la società per cui ha giocato per 25 anni. Ma il Chelsea che fa? Beh, si parla molto di Pirlo, almeno sembra questa la richiesta principale di Ancelotti, che del resto con Pirlo in quella posizione, praticamente affidandogli le chiavi del centrocampo, ha ottenuto tanto con il Milan. Io non so se il Milan però non sia dell'idea di cedere un secondo giocatore dopo il sacrificio di Kakà. Non lo so, credo che sia tutto da vedere, Ancelotti valuterà il tipo di giocatori che ha a disposizione. Potrebbe perdere Carvalho, che mi sembra farà la strada inversa di Ancelotti, cioè arriverà a Milano, sia pure sponda Inter per ricongiungersi a Mourinho. Per il resto io credo che il Chelsea non abbia tutto sommato bisogno di molti aggiustamenti, tenendo presente che una squadra che l'anno scorso ha vinto le FA Cup è arrivata praticamente a pochi secondi dalla finale, visto quanto è accaduto nella semifinale con il Barcellona, una squadra competitiva per la Premier League, quindi penso che gli aggiustamenti comunque saranno pochi, magari solo uno e magari proprio Pirlo. Grazie Nicola, buon lavoro. Grazie a voi, grazie agli ascoltatori. Grazie Nicola Roggero, alla prossima. Maurizio da Brindisi, buongiorno. Buongiorno. Dica. E niente, la riflessione che facevo dopo aver ascoltato tutte le varie telefonate precedenti, che comunque sono tutte pertinenti sul caso Kakà e sul caso che si sta scatenando relativa a Ronaldo, è che l'Europa, che fino ad oggi rappresenta un'istituzione sulla carta, non si è assolutamente uniformata dal punto di vista fiscale. Certo, è stato snocciolato questo argomento, però è fondamentale, secondo me, in un calcio come quello attuale, che è globalizzato. Sì, è fondamentale, molto importante, non è centrale secondo me, però, perché il vero nodo del discorso sta in una disparità di trattamento imposto dalle normative dei singoli paesi, che consentono appunto ai club inglesi e ai club spagnoli di viaggiare sopra la linea di galleria, cioè di viaggiare sopra una montagna di debiti, insomma, e di continuare ad acquistare giocatori. È questo più della fiscalità in se stessa, di cui abbiamo parlato molte volte, a fare la differenza, a mio parere. Andiamo un po' di corsa. Fabrizio Ancona, buongiorno. Buongiorno, velocissimo. Dica. Io insisterei sul discorso del salary cap di cui parlava prima un suo ospite. Cercherei di studiare una situazione che permetta a tutti di uniformarsi e avere un tetto stipendi. Lei sta parlando all'interno della Champions League? Io dico a livello UEFA? A livello UEFA. È una cosa utopistica, me ne rendo conto. Seconda cosa velocissima, i procuratori sono il male del calcio, perché sono loro che fanno in modo che i giocatori ogni anno vogliano un ritocchino, e parliamo di cifre che né io né lei tutti quelli che ascoltano guadagneranno mai. No, ma ripeto, discorsi da senza vergogna, in tutta onestà, perché ieri, ripeto, ho sentito, ma era un caso di specie, poi si può generalizzare in maniera, non dico indiscriminata, ma in maniera molto ampia. Ho sentito ieri appunto il procuratore Di Maicon fare dei discorsi che in tutta onestà c'era un po' da vergognarsi, ecco, sulla base di quelle cifre. Prego. Ultima cosa, velocissima, le valutazioni dei giocatori. Io sentivo parlare di 25 milioni di euro per Pepe, 25 milioni di euro per Pirlo. Cioè, secondo me, con tutto il rispetto per questi giocatori, stiamo dando i numeri. Perché a mio modo di vedere, Pepe non vale assolutamente 25 milioni di euro. Pirlo ha un'età che forse 25 milioni di euro, pur stimandolo, e ieri ha fatto una buonissima partita, non è un giocatore da 50 miliardi di lire. Secondo me abbiamo sforato anche in quello. Ma il parametro qual è? È proprio il discorso che facevo prima, il mio timore principale. Il parametro è stato rotto 15 anni fa da Berlusconi, poi da Moratti e adesso da Florentino Perez. Se più andiamo oltre, e peggio sarà, è l'Italia che ha quelle normative di cui voi ieri avete ampiamente parlato e sviscerato, non potranno mai essere competitive, a meno che, perché io sono un tifoso juventino, la famiglia Agnelli è stata sempre una di quelle che ha messo meno soldi. Certo. E ora che non ci sono più gli Agnelli metteranno ancora meno soldi, badano molto al bilancio, e questa è una cosa che secondo me è giusta, entrando sullo stadio di proprietà. Ma è giusto, ma è giusto fare questi ragionamenti? No, perché all'estero, non dimentichiamoci, noi diciamo ok, loro possono spendere, possono viaggiare su una voragine di debiti, però è anche vero che hanno, a differenza dei club italiani, anche dei beni immobili, hanno dei cespiti, hanno delle garanzie che possono offrire alle banche a copertura dei debiti che fanno, cosa che mi risulta in Italia ancora non esista, almeno fino a quando vedremo nascere il primo stadio di proprietà, che dovrebbe essere quello della Juventus, dopo il giglio della Reggiana, ma questi sono discorsi un po' lontani. Fabio Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io volevo tornare un attimo sul discorso più specifico su Milan e la vendita di Kakà, nel senso, anche sentendo gli ultimi interventi e le notizie che sono uscite in questi ultimi giorni, secondo me il Milan, al di là di aver venduto Kakà senza una precisa programmazione alle spalle, almeno quanto pare, l'ha pure venduto male, al di là della valutazione che ha avuto oggi fuori per Ronaldo. Ma l'ha venduto molto presto. Presto e male, perché se proprio il Real Madrid, visto che sono anni che rompe le scatole al Milan di voler Kakà, lo doveva vendere alle sue condizioni. Dicevi, caro Florentino, vuoi Kakà? Mi dai 85 milioni? No, non te ne do 85, magari chiudi a 80, che è già un po' diverso da 68. O se no mi dai una contropartita tecnica, sì, che a me può gradire. Butto lì uno Snyder, un Van der Vaart. No, poi i nomi si possono fare. Di certo gioca il fattore tempo, nel senso che secondo i ben informati, io ci credo, l'affare Kakà è stato chiuso da diverso tempo, quantomeno dai primi di maggio, se non prima. Dunque le cifre erano quelle, dunque le firme sono state messe, dunque gli accordi presi sono stati quelli. È evidente che, insomma, mi vergogno a parlare di prezzi di saldo, però c'è una certa sproporzione tra la valutazione di Kakà e quella nuova di Cristiano Ronaldo. Signora, aggiorniamo la seduta, perché adesso voglio parlare di basket. Ciao Flavio Tranquillo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Tanti a pochi ieri sera tra Siena e Milano. Come da pronostico, mi hanno colpito soprattutto le parole di Luca Vitali, che ha detto: se giochiamo così perdiamo, e perdiamo soltanto di 23 punti, dobbiamo ringraziare perché ci è andata di lusso. Sbagliato il nostro atteggiamento, da perdenti e con facce rassegnate prima che iniziasse la partita. Dobbiamo metterci in testa l'idea che giocare una finale vuol dire onorarla, partire da 0-0, provare a giocarla col piglio di una squadra che pensa di poter vincere. Ci è andato giù leggero, Luca Vitali. Beh, direi che troppo prevedibile per certi versi, troppo prevedibile lo scarto, troppo prevedibile come si è determinato, e troppo prevedibile anche questa reazione. È ovvio che è la cosa giusta da dire, è ovvio che si tratta di uno sforzo di onestà, e questo è apprezzabile, però non posso credere che sia solo una questione di approccio e di voglia, anche se quando finisci nella fase decisiva della partita un contropiede 3 contro 1 con i due davanti che hanno 7-8 metri di vantaggio sull'uno recuperante, qualcosa di strano c'è. Senti, Milano può veramente secondo te provare a costruire qualcosa in questa fase finale o in questa serie finale, o deve limitarsi alle buone figure, o deve limitarsi all'impegno, deve limitarsi a crederci un po' di più? Ma sai, dall'esterno è molto difficile dire quanto, ripeto, sia impegno e quanto sia impossibilità tecnica e tattica di riuscire a fare una differenza contro Siena. Io penso che una parte di impegno ci sia e ci debba essere, e anche nella serie contro Biella ci sono stati dei momenti in cui proprio andava un po' giù la tensione e il voltaggio della squadra per l'Armani Jeans, il che però credo sia anche un po' legato al fatto che quando tu fai tutte queste rotazioni hai dei vantaggi, ma hai anche degli svantaggi, e questo può essere uno degli svantaggi. Il discorso vero è cosa si riesce a fare contro una squadra che ti dà l'impressione di sapere sempre, comunque, quello che sta facendo, e che poi ha un impatto fisico, soprattutto quando gioca in casa, molto superiore, perché Storru contro Hall, Eze all'interno dell'area, la pressione sull'esterno, i raddoppi che hanno fatto nel terzo quarto per lanciare quei 2-3-4 contropiedi, quello è proprio un fatto fisico, sì, prima ancora che tecnico. Sì, a proposito di fisico, molti dicevano, molti pensavano, anch'io per la verità, che Taylor potesse essere un fattore a sorpresa in questa serie, potesse comunque creare qualche pensiero a Siena. Evidentemente pensieri ce li hanno avuti e li hanno anche risolti, vista la partita di ieri sera. Sì, direi di sì. Non è una ricezione statica in generale quella che preoccupa particolarmente il Monte dei Paschi, e non è un caso, direi, che Taylor e Marconato insieme hanno fatto una frittata con due uova, e gergo americano per quando fai 0 punti. Flavio, per, andiamo invece alla, all'altra serie, quella un po' più equilibrata, cosa dici? Forse anche un po' più spettacolare, che si sta vivendo notte tempo. Questa notte gara 4, sempre in Florida, e si riparte dal 2-1. E stasera direi o si fa la finale oppure statisticamente si muore, visto dalla parte dei Magic. Esatto. Non lo so, stavo rivedendo adesso il secondo tempo della partita, il terzo quarto. Un brutto terzo quarto offensivamente per i Lakers, brutto per concetti, non per risultati, molto brutto. Il quarto periodo, adesso andando a memoria, devo ancora rivederlo, è stato un po' meglio, peggiore come risultati ancora, perché poi hanno sbagliato 3, 4, 5 tiri che potevano cambiare la storia della partita, della finale. Dipende, se quello è un episodio, io credo che i Lakers comunque, tenendo botta all'inizio, sapendo di avere due occasioni per fare il punto che gli serve per tornare eventualmente a Los Angeles e chiudere la serie, possano vincere stasera. Se non è un episodio, attenzione, perché se poi i Magic arrivano sul 2-2 diventa una serie molto ma molto particolare, perché questa è una squadra molto ma molto particolare. Per i Lakers, pur in questa partita brutta giocata, comunque una partita combattuta fino in fondo, questo è senz'altro un buon segnale. Sì, sì, decisamente, quando gli avversari fanno il record storico a livello di finale in una partita per percentuale di tiro, e tu hai più di un'occasione per vincere, sei comunque a ruota sostanzialmente tutta la partita, è un eccellente segno. Però è anche vero che i Magic, oltre ad aver ritrovato il tiro, hanno ritrovato Holston e Pietrus, e hanno almeno un altro paio di giocatori che potrebbero dare una mano ai due principali, che sono Turcolo e Lewis, e a Howard, che adesso, messo in quella posizione, tende a essere un giocatore importante, anche se ancora non è pronto per essere il trascinatore assoluto. Flavio, buon lavoro, grazie. Grazie a voi. Grazie a Flavio Tranquillo, con cui chiudiamo questo programma. Naturalmente domani invece si parla per tutta l'ora di basket, e francamente ne ho anche una certa voglia dopo Mercato, Cristiano Ronaldo, Quattrini, eccetera, eccetera, eccetera. Domani c'è Palla Spicchi, vi aspetto. Grazie a Flavio Suardi per il lavoro in redazione, a Pietro Lacorte in regia. Domani alle 14.